Come ti trovi invece con gli altri ragazzi del centro? Bene? I ragazzi li ho visti crescere in bucaniere perché sono 30 anni che sono qua. Marco, volevo chiederti, te prima hai detto che da giovane andavi a tuo zio a fare il cuoco. Ma adesso te, ti è mai capitato di metterti a cucinare, ti hanno chiesto di provare a fare il cuoco? Così? Ma questa è una domanda che mi piace, perché io mi sento ancora capace, Sì. però è impossibile perché andare a fornare come fa? Beh, ti potresti far dare una mano. Ecco. Te dici, te fai questo, questo, questo, mentre tu vai a No, fare questo. sbagliato, perché in cucina voglio fare tutto io, non Fatti aiutare.